Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, finalmente siamo insieme. Sono le 11:10, il nostro numero verde è attivo, 800 24 00 24, verde, una parola che tornerà nel corso della nostra trasmissione. Naturale, ecologico, ambientale, sano, a chilometro zero, privo di inquinanti e contaminanti, senza additivi aggiunti. Ci state pensando anche voi quante volte, quante frasi, dizioni, aggettivi, parole sono state introdotte nella nostra vita per trasformarla in ciò che da sempre dovrebbe essere, ovvero rispettosa della biologia di cui è testimonianza. Allora oggi ho deciso di dedicare la trasmissione alle molte diverse svolte bio che possiamo imprimere nella nostra quotidianità. Di per sé è un paradosso, perché parlare di svolta bio spesso significa per molti di noi tornare indietro al punto di partenza, a quella naturalità dalla quale tutti proveniamo e da cui uno stile di vita sempre più moderno, sempre più di corsa, sempre più, dite voi quello che vi sembra, ma è così, ci ha allontanato. È da poco uscito in Italia un libro che è la traduzione di un grande successo negli Stati Uniti. Il libro mi ha molto colpito, è pubblicato da Sonzogno e si intitola Dormire nudi e verde, sottotitolo 366 consigli per vivere bio e divertirsi tutti i giorni dell'anno. Allora oggi potete anche raccontarmi se dormite nudi o col pigiama, ma oggi cercheremo soprattutto di aiutarci tutti insieme a capire quali svolte bio possiamo aggiungere alla nostra tavola. E tra l'altro io vi chiedo subito di attivarvi, perché anche oggi, grazie alla collaborazione con IBS, potremo mandare ad uno di voi a casa il libro Dormire nudi e verdi, e io direi che potrà guadagnarselo l'ascoltatore che ci chiamerà allora 800 24 00 24 o ci scriverà al 349 238 6666 la svolta bio che sta seguendo, quella che vorrebbe seguire. Mi sono naturalmente fatta così, ho chiesto aiuto, perché ho davvero qui un ospite che di bio se ne intende, è Venezia Villani, che è direttore di Cucina Naturale. E devo dire, una delle riviste di cucina che a me piacciono in modo particolare, perché in ogni numero questa rivista propone ai suoi lettori un viaggio nel gusto, ma al tempo stesso nella genuinità e nella naturalezza. E questo secondo me è il vero must del giornale. Venezia, direttore, buongiorno. Buongiorno, grazie di queste belle parole. Cucina Naturale vuole proprio proporre una cucina semplice e sana, che segue le stagioni, diciamo possibile per tutti, non è più difficile dell'altra, e accompagna insomma il lettore in questa possibilità che ha di mangiare sano. E tu ci accompagnerai con i tuoi consigli, ci aiuterai a fare la spesa, di introdurre delle scelte bio, e perché noi oggi ci preoccuperemo e occuperemo di far diventare bio, ma veramente bio, ma aggiungerei anche sostenibilmente bio, la nostra dieta. Ci sono però tante persone che vorrebbero avvicinarsi al bio, ma vedono un sacco di ostacoli, ad esempio i costi, Venezia. Beh, i prodotti biologici in genere costano un po' di più di quelli convenzionali, perché hanno un diverso metodo di produzione, e a volte anche perché si muovono dei volumi più piccoli, quindi è anche una questione di organizzazione. C'è da dire che per comprare biologico si può anche trovare dei modi anche simpatici e socievoli. Per esempio, vabbè, io faccio parte da molti anni di un gruppo d'acquisto solidale. Raccontaci, perché queste cose ci interessano. Il gruppo d'acquisto, I GAS, esattamente, gruppo di acquisto solidale. Sono gruppi di persone, devo dire, interessate all'argomento, perché devi dedicare del tempo a questa cosa. Io ci passo qualche serata al mese, e poi diventa, secondo me, una cosa molto simpatica, perché fai nuove amicizie, trovi persone che pensano un po' come te, sono un po' della tua stessa filosofia, un po' tra virgolette, diciamo, sul cibo naturale. E all'interno del GAS, dopodiché c'è una divisione dei compiti, ognuno si occupa magari di un settore. In questo modo selezioniamo i produttori, in genere sono produttori appunto biologici, il più possibile vicini, li andiamo magari a conoscere, andiamo a fare una gita, e dopodiché acquistiamo direttamente da loro. Si instaura proprio un rapporto, una relazione, e anche un modo per tornare tornare a vedere come si produce il cibo, dove nasce, certo. E per i bambini è una cosa sempre molto veramente entusiasmante. E in questo modo acquistiamo direttamente, con risparmiando, io mi diverto, poi è chiaro che un minimo di impegno c'è, e avendo a disposizione dei cibi a un livello anche di qualità molto alto, che magari comprando direttamente in negozio forse pagheresti un po' tanto. Ecco. Quindi si risparmia? Senza, e il gusto e la naturalezza sono assolutamente garantite. La freschezza. Reperibilità. A parte i gas, è difficile reperire gli alimenti biologici? Non più tanto. Sta crescendo sia la vendita che la diffusione dei prodotti biologici in Italia. Anzi, l'anno scorso è aumentata di più del 10%. Li troviamo sia nei supermercati, sia nei negozi anche piccoli, ma nei negozi chiaramente specializzati, che sono dedicati proprio a questa tipologia di alimenti. Ma poi si trovano anche ormai nei mercatini, ci sono sempre più di frequente anche nei piccoli comuni dei mercatini magari mensili, dove i produttori portano i loro prodotti biologici. Allora, guarda, io ho altre cose da chiederti per così incamminarci verso una svolta bio, ma voglio leggerti subito il messaggio di Max da Roma, che è arrivato al 349-238-6666. Ma quale svolta bio? Ci scrive: c'è sempre maggiore inquinamento elettromagnetico, siamo destinati al peggio comunque. Ecco, allora vedo anche Filippo Aureggi che si è buttato un po' giù, no? Ecco, poi però sorride Laura Vanossi in redazione. Ci sono persone che dicono: viviamo in città inquinate, mio marito fuma, e cosa faccio? Cosa mangio bio a fare? Ma se ormai... Anzi. Ecco, anch'io sono... Bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Ecco. No, è un modo per contrastare questo inquinamento diffuso. Per carità, è chiaro che ci si deve muovere anche per magari andare meno in macchina o intervenire per quello che possiamo singolarmente sul problema generale dell'inquinamento, assolutamente. Però diciamo che già mangiare della frutta che non contiene pesticidi fosforganici, che sono delle sostanze che sono, diciamo, restano come residuo più o meno nella metà della frutta in vendita, poi per carità al di sotto dei limiti, certo, nella stragrande percentuale, però è presente, già mangiare o far mangiare ai bambini una frutta che è priva di residui chimici, secondo me è già un passo. Allora, Max da Roma, regaliamo una mela bio, no? Ecco, una mela al giorno toglie non solo il medico di torno, ma forse anche il pessimismo. I prodotti bio, dicono alcuni, sono meno belli, meno attraenti alla vista. A volte anche al supermercato vediamo che c'è il settore, no, dei prodotti bio, e sembrano un po' lì poverini. Ma guardateli bene questi prodotti bio. Magari, ecco, è possibile che siano un pochino più piccoli a volte, perché sono un pochino hanno una crescita, per esempio i vegetali, un po' più lenta, però se il fatto di essere un po' più piccoli non vuol dire essere più brutti, e la bellezza noi siamo piccoline e la freschezza è l'elemento più importante. Io non vedo più questi prodotti bio brutti. Forse 20 anni fa, quando la distribuzione era ancora un po' intermittente, capitava di trovare nei negozi ancora della frutta, degli ortaggi un po' vecchiotti. Adesso non è più così. Senti, a volte i prodotti bio sono meno buoni, anzi direi non meno buoni, hanno un sapore diverso, e questo ad alcuni, me lo stanno facendo anche notare alcuni ascoltatori via messaggio, può frenare. Io li trovo... Non saprei dire, perché io non li trovo né più buoni né meno buoni. No, a volte più buoni. A volte più buoni, perché magari sono dei prodotti artigianali fatti con una cura particolare. Meno buoni non saprei perché. Angelo ci chiama dalla provincia di Catania all'800240024. Vediamo se ha fatto una svolta bio oppure se vuole provare oggi, da oggi, a farla. Angelo, buongiorno. Buongiorno signora. Buongiorno. Io intanto saluto tutti i vostri telespettatori, anche voi. Sì, grazie Angelo. Quello che io non ho fatto una scelta bio, io ho scelto la vita bio, ho abbandonato la città e adesso vivo in campagna e coltivo la terra con cui riesco quasi a soddisfare le necessità della mia famiglia. Una svolta quasi radicale. Ma guardi, ero stressato, ero nervoso, ero sempre più stanco. Invece ora ho trovato la mia tranquillità e mi sento bene, anche perché ne serve per rimettere in moto il corpo e tenerlo attivo. Certo. E poi voi parlate di bio. Io direi puntualizzare un attimino il discorso. Sì. Per esempio, nessuno più conosce i veri sapori della frutta, della verdura. Io raccolgo la frutta quando è matura, non verde. Certo. Perché poi deve maturare, quindi direttamente dall'albero. Questa, grazie Angelo, Venezia, questa è una buona scelta. Sicuramente l'ascoltatore ha fatto una scelta radicale che molti invidiamo sicuramente. E, per poterci avvicinare ad assaggiare appunto una frutta che arriva direttamente dall'albero e non ha fatto tanti giri che sono necessari purtroppo per la grande distribuzione, la vendita diretta da parte del produttore e quindi la possibilità di farlo magari come gita occasionalmente, è chiaro che non ogni momento si può fare, è un'occasione per assaggiare la frutta colta subito dall'albero. Allora, a guadagnarci anche la salute, in linea con noi abbiamo la dottoressa Paola Reverso, medico nutrizionista e presidente dell'associazione Il Me Più Te. Buongiorno dottoressa Reverso. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti e ciao Venezia. Ciao. Voi vi conoscete perché sì. La dottoressa Reverso ha una rubrica fissa proprio sulla dieta per i bambini. Per i bambini, cucina per i bambini. Cucina per i bambini. È importante fare assaggiare già delle cose buone, fare delle scelte bio, delle scelte naturali per la dieta dei nostri bambini e avvicinarli anche alla cucina. Dottoressa Reverso, una scelta bio al giorno può in qualche modo aiutarci a vivere meglio, a stare più in salute? Direi proprio di sì, non solo perché lo dico io che sono una piccola goccia nel mare, ma soprattutto perché lo dice la scienza e lo dice la prevenzione, quindi parla così Umberto Veronesi e parla così Luc Montagnier nel suo libro La scienza ci guarirà, mm-hmm. Edito Sperling, sul quale io ho avuto il piacere di fare l'adattamento per l'edizione italiana, e loro, ricordiamoci che Luc Montagnier è premio Nobel per la medicina, quindi crediamogli, una scelta biologica è importante proprio per preservare la salute, dal momento che il mio campo ormai è quello di occuparmi di prevenzione primaria, quindi una scelta di vita sana ed insegnarlo ai bambini a partire dai 3 anni di età, non posso che sposare l'alimentazione bio, naturalmente con tutte le difficoltà di cui avete parlato, con tutti i dubbi per carità, ma una piccola scelta al giorno la possiamo fare tutti e non ci costa quella grande fatica, poi piano piano possiamo farla entrare nel nostro stile di vita. Venezia, se io dovessi comprare adesso qualcosa di bio, facciamo finta che io non ho mai comprato nessun prodotto e sono un po', no, non so bene verso quale prodotto indirizzarmi, devo tenere conto sicuramente della spesa, alcuni prodotti bio costano un po' di più, tu suggerivi appunto di affiancarsi ad un gas, ma qual è un prodotto bio che può fare davvero la differenza? Posso dirne due? Sì, anche 3 se vuoi, No, poi andrei avanti troppo. Io insisterei molto nel far provare la frutta. Sì. La frutta, perché per una questione anche di trattamenti, tutto, diciamo, la possibilità di poi di dare, soprattutto ai bambini, dicevo, frutta senza residui. E poi le uova perché sono un alimento importante, hanno un valore nutritivo alto, diciamo, relativamente al prezzo che costano, e le uova biologiche sono veramente diverse, nel senso che magari a guardarle non sembrerebbe, però l'allevamento delle ovaiole è all'aperto, mangiano le ovaiole, sono mangimi biologici, cioè le stesse galline, diciamo, sono nutrite con mangimi biologici, non OGM, gli animali non subiscono, diciamo, dei trattamenti preventivi come succede del resto in tutti i tipi di produzione bio, cioè gli animali non hanno il mangime medicato, cioè il mangime che contiene sostanze, diciamo, protettive, ma sì, chimiche comunque, quindi diciamo alla fine l'uovo biologico è un modo molto facile per cominciare a mangiare bio. Allora, però apriamo, rispondiamo agli ascoltatori che mi scrivono. Questo le leggo più, ti leggo quello più il messaggio che è arrivato ora. Ma se io compro la frutta bio e nel campo di fianco usano pesticidi, mangio frutta bio? Altri ascoltatori mi fanno così notare che poi l'acqua, ecco, l'acqua dell'irrigazione è uguale nei campi bio e nei campi non bio. Allora, alla fine questo bio è veramente bio? Allora, per quanto riguarda il vicino che tratta, sono tutti problemi che sono stati posti e che vengono, diciamo, ogni giorno considerati quando si fa la certificazione, perché una cosa che ancora non abbiamo detto è che i prodotti biologici, per essere tali, devono essere certificati, quindi c'è un ente terzo che va e va a verificare sul campo che la situazione sia, diciamo, più possibile protetta. Sì. Per cui i produttori biologici che hanno un vicino che invece tratta devono avere una cosiddetta fascia di rispetto, cioè una zona in cui producono biologico, ma il prodotto di quel filare o filari di alberi, per esempio, viene venduto sul mercato convenzionale. Ho cioè, capito. Il produttore biologico ci perde, perché chiaramente sul mercato convenzionale il suo prodotto è chiaramente pagato meno, anche se è coltivato in modo biologico, però si garantisce dal rischio della presenza di residui di pesticidi, perché è lui il primo che rischierebbe nel caso di un controllo che gli tolgano la certificazione. Andiamo a Elisa che ci chiama da Milano. Buongiorno Elisa. Sì, buongiorno. Lei buongiorno è bio? Io sono bio per metà, diciamo, faccio scelte bio per quanto riguarda le catene dei supermercati, perché ci sono queste catene meravigliose che sono nate da un po' di tempo a Milano, e anche io sono di Pavia, per cui viaggio tra Milano e Pavia e spesso mi trovo in corrispondenza di questi supermercati. Sì. C'è da dire che ai supermercati biologici la frutta e la verdura costano parecchio di più, secondo me. Si riesce a comprare biologico nelle catene di distribuzione tipo l'Esselunga, che funziona bene secondo me con un biologico, con una buona offerta di biologico. E anche le offerte sul scontate, quindi con un 30%, un 20% su prodotti che magari sono... Quindi costi un po' più alti, Venezia ci suggeriva di appoggiarci ai GAS, basta andare sul sito e si risparmia. Rete gas.org, mi sembra. Elisa, ma lei è soddisfatta comunque, è disposta a spendere qualcosa in più perché la qualità la sente, insomma, fa la differenza, il sapore? Assolutamente, ma è un po' il discorso è quantità, qualità anche, nel senso che noi siamo abituati alla grande distribuzione, per cui siamo abituati a vedere magari i 3 kg di roba con un grande risparmio. Questo su tutto, dal prodotto fresco al prodotto confezionato al prodotto non, cioè al detersivo, qualunque cosa è ormai l'offerta, quindi ti fanno, cioè io sono un po' di questa idea, ti fanno sviluppano dei bisogni, cioè quello a partire dalla pubblicità, però sviluppano dei bisogni che non sono primari per noi, quindi noi non abbiamo più la corrispondenza tra la nostra necessità e il bisogno che poi andiamo a soddisfare. Invece se guardiamo, poi magari perché magari abbiamo anche una casa che occupa, che può contenere tanta roba, invece certo, abitando in monolocale o bilocale e diventa difficile. Grazie Elisa. 800 24 00 24, tempo di andare a sentire i mercati, poi torneremo anche noi al mercato e al supermercato per delle scelte bio insieme alle nostre ospiti. Voi chiamateci, scriveteci al 349 238 6666. La svolta bio che sceglieremo insieme a Venezia Villani di uno di voi riceverà a casa dormire nudi e verde. Sono arrivati diversi sms su questo dormire nudi, un ascoltatore mi scrive dormire nude con una trentenne sicuramente. Però a parte questo, noi ci occupiamo di dieta, di alimentazione, restate con noi. Essere e benessere. Oggi proviamo a fare una scelta bio, una scelta bio da inserire poi e da portare a tavola. Prendiamo spunto da un libro, Dormire nudi e verde. In linea con noi abbiamo Venezia Villani, mentre in linea abbiamo la dottoressa Paola Reverso. Dottoressa Reverso, mangiare bio, abbiamo detto, aiuta anche la salute. Perché però? Perché sicuramente per tutte le motivazioni che ha detto prima Venezia, perché non posso che condividere, se no non scriverei sul suo giornale, perché un minor tasso di pesticidi fertilizzanti è assolutamente auspicabile. Teniamo conto di una cosa molto semplice: le nostre, tutto quello che noi mangiamo diventa o componente cellulare o viene utilizzato dalla cellula, che è la parte più piccola del nostro corpo, sì, per produrre energia. Noi siamo fatti di cellule. Facciamo un esempio, concedetemelo, veramente molto semplice: quando noi cuciniamo produciamo degli scarti, questi scarti li dobbiamo eliminare dalla cucina, dopo alcuni giorni possono diventare fastidiosi. La stessa cosa nella cellula: più noi mangiamo naturale, più noi mangiamo sano, meno scarti si producono, meno inquiniamo una cellula. Io, occupandomi di prevenzione, ripeto, ci sono patologie, purtroppo quelle che sono che interessano di più l'umanità, che sono le neoplasie, partono dalla cellula, da una cellula sana. Ricordiamoci, questa è una cosa importante, quindi noi più la manteniamo. Pensiamo alla cellula. Salute. Allora, pensiamo alla cellula, e io vorrei portare le mie amiche a fare la spesa. Iniziamo. Allora, nel nostro carrello della spesa cosa mettiamo? La frutta e la verdura. Venezia, tu ci hai detto che meglio la frutta. Se dovessimo fare una scelta tra frutta e verdura, è meglio privilegiare come bio. Se dobbiamo fare una scelta che compriamo qualcosa bio e qualcosa no, sì, sì, effettivamente la frutta è preferibile, semplicemente perché in genere, quando, anche vedendo le analisi che vengono fatte dalle ASL sui residui dei pesticidi nei prodotti ortofrutticoli, in generale gli ortaggi ne contengono per il 20%, diciamo, i residui, sempre parlando di presenza in tracce. Sempre. Sì. E quindi, dovendo fare una scelta perché dobbiamo anche un po' risparmiare, per cui che molti dei miei ascoltatori mi dicono: vorrei mangiare bio, però quanti soldi vanno? Allora, carne e pesce. Allora, per si il possono pesce... fare delle scelte bio anche qui, certo. E come faccio a trovare ed essere sicuri di acquistare un prodotto bio e con quali vantaggi? Allora, per quanto riguarda la carne, le differenze nell'allevamento sono sostanziali. Basti pensare che per arrivare allo stesso peso per un pollo allevato biologicamente e convenzionalmente, diciamo che per il pollo bio ci vuole il triplo del tempo. Questo tra l'altro spiega anche una parte del prezzo, perché quando noi mangiamo della carne, più o meno la metà del prezzo che paghiamo è il mangime che è stato usato per far crescere l'animale. Evidentemente, se il pollo ci mette il triplo del tempo per arrivare allo stesso peso, è stato necessario dargli un bel po' più di mangime. È un pollo costoso, insomma. Esatto. E quindi la differenza, diciamo, nel prezzo della carne è abbastanza evidente. Per cui lì effettivamente è una questione di scelta, insomma, se si può, però, se si vuole questo spendere. Dottoressa Reverso, voi nutrizionisti, medici dicono generalmente: attenzione, la nostra dieta è troppo ricca di carne, ci sono tante persone che io capisco, alla sera uno è stanco e si fa una fettina ai ferri, un po' di insalata e la carne diventa quindi un alimento che si prepara molto facilmente, però c'è il rischio di mangiarne troppa. Quanta carne dovremmo mangiare, bio o non bio? Una volta alla settimana la carne rossa, due volte alla settimana le carni bianche, pollo, tacchino, coniglio, lonzo di maiale per capirci, 3-4 volte alla settimana pesce, assolutamente solo pesce pescato in mare, possibilmente il nostro pesce azzurro. A proposito di pesce, Venezia, anche qua c'è il bio? Sì, sì, da poco, perché il regolamento è recente, il regolamento comunitario, e si stanno sviluppando e si sta cominciando a diffondere anche il pesce allevato, chiaramente, perché il pesce selvaggio non può essere certificato né bio né non bio, perché lui fa quel che vuole, pesce per i fatti suoi. Invece per quello allevato, quindi si parla dei classici pesci allevati, dalla trotta al salmone, l'orata, questi qui, si cominciano a vedere certificati bio. E quindi io vedo l'etichetta, c'è scritto. Certo, certo, perché sia certificato bio ci deve essere scritto, perché ci devono essere i codici dell'ente certificatore, ci deve essere scritto biologico. Quindi quando io anche vado in un mercatino piuttosto e mi dicono prende bio, io devo, posso dire mi faccia vedere la targhettina? Sicuramente, infatti se va... Perché noi tante volte siamo timidi. Ma lo so, ecco. Ma infatti le arance non trattate, che spesso c'è scritto magari biologico, invece non è vero, ma è una una questione di ignoranza, diciamo, oppure anche un po' di furbizia. I produttori biologici che vendono, io faccio la spesa per dire il sabato, un mercatino normalissimo dove c'è un produttore biologico che vende i suoi prodotti, sì, perché è un produttore di ortaggi, sì, e poi commercializza per offrire, diciamo, al cliente un paniere completo di prodotti, altri prodotti biologici, però io lo vedo che sono biologici anche perché le confezioni, le scatole sono tutte indicate in maniera evidente il fatto che sia biologico. Ecco, basta leggere quando diciamo, esatto, leggiamo le etichette, ecco, e se no chiediamo. Anche sì, ecco, sì, si può timidezza. Chiedere senza timidezza. 800 24 00 24. Enrico ci chiama da Brescia. Buongiorno Enrico. Sì, buongiorno a tutti e complimenti. E io chiamo perché volevo sapere, in merito alle certificazioni che rilasciano gli enti per i certificati bio. Sì. Che io, quando vado al supermercato, prendo la frutta dal mancone e posso leggere, diciamo, il produttore, chi è e se è certificato. Però come faccio ad avere un grado maggiore di sicurezza che effettivamente il prodotto che si è venduto, dato che ha un valore aggiunto più alto rispetto alle grandi catene, diciamo, di, per esempio, di arance, di banane, di frutta? Insomma, Enrico vuole essere proprio sicuro, sicuro, sicuro. Venezia. Ha ragione, anche perché il biologico promette molto e deve mantenere le sue promesse. E gli posso dire che se va a verificare anche online i dati della repressione frodi, diciamo, il fatto che il biologico sia così particolare incuriosisce anche gli enti di controllo, perché è vero che è certificato, ma questo non significa che non venga controllato come tutti gli altri dai vari enti, appunto repressione frodi piuttosto che le ASL, così, no? E se si va a vedere, perché sono dati pubblici, i resoconti dei controlli degli anni passati, si vede anche i controlli che sono stati fatti sul biologico e si può verificare che è una delle, forse, adesso non vorrei esagerare perché non mi ricordo tutti i dati a memoria, anzi quei numeri sono tremendi. No, però ricordo bene che le percentuali di frode in questo settore sono bassissime, anche perché sono già controllati dall'ente certificatore, quindi nel biologico c'è un doppio controllo, cioè il controllo comunque obbligatorio per legge del certificatore e poi il controllo casuale, se vogliamo, o più o meno organizzato, degli enti pubblici di controllo. Quindi Enrico può andare a vedere anche online su che sì. Il sito della repressione frodi, però io mi pare che abbia cambiato nome negli ultimi tempi, però comunque digitando cercare, repressione frodi si sul trova sul sito del Ministero dell'Agricoltura. Gabriella ci chiama da Varese, buongiorno. Buongiorno. Siamo qua. Allora, sì, mi scusi perché stavo guidando e quindi accosto. Brava Gabriella, questo non è un, non so se non possiamo dire una scelta bio, ma è di sicurezza, questo ci piace. Esatto. Allora, raccontiamoci. Allora, mi aggancio proprio a quello che chiedeva l'ascoltatore che ha appena chiamato. Sì. Io ho una produzione di mele biologiche in Piemonte ci sono molti controlli, per cui è tutta una legislatura a cui uno si deve attenere. Inoltre noi vendiamo il prodotto prima ancora che venga, che cresca la mela, diciamo, cioè l'azienda che ci compra prima era una grossa catena di... Sì, ma io, Gabriella, io non vorrei andare tanto nel tecnico. Lei che produce mele bio, ci dia qualche consiglio per una svolta bio nella nostra, allora, quotidianità? Sì, no, volevo dire questo. Perché l'azienda che compra le mele, sì, viene a fare anche lei dei controlli, sì, ed è presente per tutto il periodo della raccolta per controllare che non vengano inserite in mezzo alle mele biologiche, sì, delle mele di altra provenienza. Quindi è un ulteriore controllo, quindi non è che io controlli su controlli, quindi insomma non si scappa di lì. Grazie Gabriella. Venezia, era quello che dicevi tu anche, quindi... no, questo è un terzo ancora, perché spesso le grandi catene di supermercati, per essere ancora più sicure, soprattutto quando si tratta di prodotti biologici a marchio loro, mandano i loro tecnici sul posto, appunto, proprio come raccontava adesso questa produttrice, per avere un controllo ulteriore. Quindi sul fronte dei controlli, secondo me, non si deve essere troppo scettici, perché è veramente, ecco, eccezionale. E a Roberto, riguardo al pesce, specifichiamo, Venezia Villani ha parlato di pesce d'allevamento, non del pesce del, certo. Ecco, quindi il pesce, che il pescato, insomma, che sì, vive sì. Libero, il no, tutto quello che è selvatico non può essere certificato come biologico. Pane bio o pane non bio? Che differenza, che differenza? È chiaro che io dico bio, evidentemente. La differenza non è tanto nel pane, nel senso che il pane può essere fatto negli stessi identici modi con farina bio o non bio, quanto appunto nella farina. E lì anche la differenza non è tanto nella coltivazione del grano quanto nella sua conservazione, nel senso che la granella viene conservata nei sili e normalmente viene trattata con delle sostanze fumiganti che poi restano nel chicco e tanto più si ritrovano per esempio nei prodotti integrali, tipo la pasta integrale o il pane integrale. Invece nel prodotto biologico questi fumiganti naturalmente sono vietati, per cui devono usare altre tecniche, la refrigerazione, l'aerazione, altre cose per evitare che si formino insetti e quindi... Possiamo farlo anche noi a casa utilizzando la farina bio? Certo, questa è una cosa che va molto di moda adesso. Va molto, anch'io faccio dello splendido pane, dell'ottimo pane. 800 24 00 24, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Grazie. Essere e benessere. Chiaramente dov'è il cammino e quanti sono i passi? Io ti guiderò finché tu lo vuoi. E poi aprirò il giardino. La canzone Nel mio giardino di Cristina Donà, che tra l'altro è stata nostra ospite poche settimane fa, ma io prendo spunto da un altro dei consigli che ho trovato nel libro Dormire nudi e verdi, e ho pensato di mettervi a disposizione la mia prossima ospite, Cristina Borghi, medico, chirurgo e farmacista, che ha appena pubblicato per Urrà il libro Un giardino che cura. Dottoressa Borghi, buongiorno. Buongiorno a voi. Dottoressa, perché ognuno di noi potrebbe pensare ad un giardino che cura per la sua svolta bio? Perché il giardino è un'esigenza fondamentale, soprattutto oggi che lo stress permea la vita di tutti noi. Il giardino, si sa, è stato dimostrato con studi clinici importanti che stempera lo stress e migliora la qualità della vita di tutti noi. Senta, dottoressa Borghi, noi parliamo di giardino, ma va bene anche un balconcino? Ma certo, va bene anche un balconcino. Ecco. Non ha importanza, come in tutti i rapporti, non ha importanza la quantità, ha importanza la qualità. E quindi anche per chi vive a Milano, io per esempio vivo a Milano purtroppo, e mi accontento di vasi di fiori sul giardino. Che riempio di alcune perenni, ma soprattutto di annuali. Per esempio d'estate lo faccio fiorire con la portulaca, che riesce a resistere anche quando io lo lascio da solo. Sì. Perché io amo il giardino naturale, il giardino che ha bisogno delle mie attenzioni, ma di poche attenzioni che siano tecnologiche. Niente pesticidi, poca acqua, solo cose naturali. C'è un consiglio nel libro Dormire nudi e verde, che è un consiglio che noi diamo spesso, è quello di usare erbe aromatiche coltivate in casa. Dottoressa Reverso, di erbe aromatiche ne abbiamo parlato tante volte, perché aiutano davvero in cucina, fanno risparmiare il sale, ad esempio. Quali erbe le consiglia? Tutte le erbe aromatiche, tutte quelle che possiamo coltivare se abbiamo un giardino oppure se abbiamo un balconcino, basta che avere la giusta esposizione, dal rosmarino alla salvia, al basilico, il prezzemolo, dragoncello, aneto, erba cipollina, abbiamo veramente un'ampia scelta. E come hai detto tu, Nicoletta, le erbe aromatiche ci aiutano a insaporire utilizzando meno sale, ma soprattutto anche possono essere una via, un tramite quando noi passiamo da un'alimentazione, diciamo, non biologica ha un'alimentazione biologica, quindi con cibi più semplici e naturali, che all'apparenza possono avere meno gusto, in realtà hanno il loro gusto, ma dobbiamo solo abituarci, le erbe possono fare da tramite. Aggiungiamo le erbe aromatiche e poi piano piano, non dico farne meno, ma apprezzare anche il cibo così come la natura ce lo offre. Dottoressa Borghi, da esperta non solamente di giardini, ma anche come medico, lei è anche farmacista, ci dà un consiglio bio per affrontare nel miglior modo possibile l'arrivo della primavera, il cambio di stagione? In che senso? Io non mi sono mai occupata, questo lo voglio mettere in chiaro, di terapia con terapia tradizionale. No, ma noi facciamo, andiamo nel nostro giardino, per chi ha la possibilità di avere un giardino, nel balconcino, per chi come me deve fare i conti con lo spazio. Quali sono le erbe che possono aiutarci ad affrontare la primavera, il risveglio del nostro organismo? Il risveglio del nostro organismo lo fanno le bulbose, che sono le più esuberanti, quelle più colorate, e in primavera ce ne sono tantissime, che vanno dai tulipani alla scilla, per chi ama i blu c'è la scilla, il muscari, poi ci sono i leucosium per le tinte bianche. Quello che sottolineo nel mio libro è che le bulbose hanno solo un difetto, sì, che quando diventano secche non sono molto gradevoli, però sono anche così versatili che permettono di aggiungere nello stesso vaso delle altre essenze, tipo la loveglia, tipo i nasturzi, le petunie. Quindi tanto colore, per riuscire ad avere un giardino colorato in continuazione. È un giardino e il colore aiuta, anche quello. Circondarsi di colore può essere una svolta bio, che tra l'altro è suggerita nel libro. Venezia, nel tuo giornale proponete sempre degli alimenti assolutamente stagionali. L'alimento su cui puntare per questo cambio di stagione, dico alimento, ma mi piacerebbe che tu ce ne suggerissi una rosa, per restare in tema di fiori. Sulle erbe aromatiche abbiamo detto, adesso quando si parlava di colore di alimento mi è venuta in mente la carota, non so perché, magari Paola sa anche dirmi perché mi nasce questo colore, però il colore arancione è un colore vitale, la carota che sembra tanto così senza pil, invece può essere veramente la base per fare piatti anche bellissimi, anche piatti importanti. Poi la carota è versatile, perché va bene per i dolci. Va bene per le minestre, si mangia cruda. Paola, un'altra, dottoressa Reverso, per un'altra verdura su cui puntare? Beh, abbiamo il ravanello in questa stagione. Vitamina C, è vero? Sì, ma poi anche questa nota amarognola sembra essere molto protettiva per le nostre cellule dell'intestino, soprattutto visto che abbiamo parlato di cellule. E se mi posso permettere, visto che c'è una collaborazione tra me e Venezia, nell'ambito della Settimana Nazionale della Prevenzione promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori dal 14 al 20 di marzo, sì, nella provincia di Alessandria, quindi tutti gli ristoranti che abbiamo contattato, sono circa uno per ogni giorno della settimana, più uno che fa il fiore all'occhiello, sì, di questa settimana, realizzeranno piatti biologici, piatti del territorio, quindi con i prodotti del territorio, possibilmente più possibile biologici. E quindi è un modo per avvicinare le ricette di cucina naturale del mese. Fantastico. Allora, io ringrazio la dottoressa Reverso, ringrazio la dottoressa Borghi, che ci ha portato un po' di colore in questa primavera che stenta assolutamente a decollare, ma noi stiamo tranquilli, arriverà. Venezia Villani, direttore di Cucina Naturale, che è stata con noi, ci ha chiarito tanti dubbi, tante cose sul biologico. Io vi saluto, vi do appuntamento come sempre a lunedì dopo il GR delle 11. Provate una svolta bio e poi ci scriviamo su Facebook. Essere e benessere.